Buongiorno. Prima di tutto, facciamo l'appello. Gigi D'Agostino. Presente. Ok, ci siamo tutti. Meno di Gigi D'Agostino. No, vabbè. Poi dicono... Sì, vabbè.

lasciatemi andare, non posso pensare fare del male, nemmeno un animale, nemmeno un fiorellino, nemmeno un uccellino. Cammino di Gigi D'Agostino, il tuo antidepresso. Rimani connesso. Connesso. Rimani connesso. Piacere, prestiamo attenzione perché non siamo allo snocciolatoio pubblico. Sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Sì, vabbè. Concentrazione. Già. La frequenza è codesta e la musica pesta. No, poi dicono che non riesco a fare le rime.

Se non ti piace così la storiella, scrivila tu, magari più bella. Magari più bella.